Effetto Mondo. I take this matter very seriously, but I am confident that a professional and objective review of these matters will demonstrate that I handled my affairs legally and appropriately, including with the benefit of professional tax advisors. Welcome. Cosa abbiamo ascoltato, Giulia? Buongiorno. Questa era la voce dell'esperto di diciamo questioni legali e di tasse della CNN, che leggeva lo statement ufficiale di Hunter Biden, che è il figlio di Joe Biden, che da ieri è ufficialmente indagato. Ed è stato il primo a dirlo chiaramente, per diciamo evasione, frode fiscale, elusione fiscale, tutto connesso alle attività che lui ha avuto di imprenditore, di manager in Cina, cioè con società cinesi. Lo ricorderete sicuramente, è un tema che era venuto fuori anche nei dibattiti presidenziali. Naturalmente era Donald Trump a accusare appunto Joe Biden di avere un figlio che in qualche modo intrallazzava con la Cina e che aveva sempre approfittato del ruolo del padre, che naturalmente lo sappiamo è stato vicepresidente degli Stati Uniti, per costruire questi rapporti poco chiari e alla fine guadagnare dalle attività del grande nemico commerciale, diciamo, degli Stati Uniti, la Cina. Non era mai stato venuto fuori niente di ufficiale, anche perché si legge oggi sui giornali americani, sì, che lo dicono con molta chiarezza, da qualunque parte siano schierati. Per tutta la campagna elettorale, di proposito, c'era stato una sorta di congelamento sui risultati di queste indagini, proprio perché non influissero in qualche modo sull'andamento della campagna elettorale e delle elezioni. Il New York Post titola Hunter Tax Probe, quindi l'indagine sulle tasse di Hunter, che poi naturalmente to hunt vuol dire anche cacciare, un nome un po' strano, e negli Stati Uniti spesso insomma c'è un campionario di nomi più bizzarri credo che in qualsiasi altro paese, probabilmente anche regole più semplici da sempre per appunto dare il nome che si vuole ai propri figli. Comunque, quindi un mezzo gioco di parole. Il New York Post è un quotidiano molto pro Trump, quindi questo titolo è a caratteri cubitali. Vedremo lo sviluppo delle indagini, perché ricordiamo anche che questo è altrettanto ufficiale, Donald Trump sta cercando di negoziare una sorta di grazia preventiva per eventuali reati fiscali commessi dai due figli maschi e da Ivanka Trump, cioè i tre figli avuti da Ivana Trump, la sua prima moglie. Quindi la questione è molto delicata, e forse per una volta, con un po' di cautela, il New York Post appunto ha fatto questo titolo, ma Donald Trump su questo è stato sta aspettando, perché sa bene, credo, per con quella lucidità che sicuramente gli resta, che i suoi stessi figli potrebbero presto essere accusati di reati molto simili. Se vuoi però ci ascoltiamo anche, perché Donald Trump invece si è espresso ieri di nuovo, nella giornata in cui soprattutto gli si chiedeva di questa ennesimo record di morti, ormai più di quelli degli attacchi dell'11 settembre. Ricordiamolo, per carità, sono più di 3.000, quindi non è che rapportati alla popolazione siano poi tanti più di quelli che abbiamo qui in Italia, anzi, però è comunque un numero enorme che fa effetto in sé. E Donald Trump però, e su questo naturalmente titolano anche altri giornali, ha di nuovo spostato il discorso sulle elezioni. Sentiamo Donald Trump. Let's see if they have the courage to do what everybody in this country knows is right. Everybody, he means him. Dunque lui ha detto: vediamo se hanno il coraggio, e parlava in particolare della Corte Suprema, che in realtà ieri con un voto 9-0, cioè con tutti i giudici conservatori schierati per questa decisione, si è espressa in modo negativo sullo stop sostanzialmente al voto dei grandi elettori. Ma Donald Trump dice: vediamo se hanno il coraggio, in particolare la Corte Suprema, e evidentemente dovrà concludere che il coraggio non l'hanno avuto, di fare quello che tutti gli americani sanno, cioè di dire quello che tutti gli americani sanno letteralmente, cioè che le elezioni sono state truccate. Interviene subito dopo Chris Cuomo, che oltre a essere il fratello di Andrew Cuomo, governatore dello stato di New York, è uno dei cronisti di punta della CNN, e dice: no, con everybody, tutti, Donald Trump sostanzialmente significa io sono del parere che le elezioni sono truccate. Sempre più istituzioni lo stanno smentendo. Insomma, vedremo. Ricordiamolo sempre, Alessio, il 14 dicembre voto ufficiale degli electoral votes, e poi il 5 gennaio le elezioni in Georgia. Insomma, ci aspetta ancora un mese intenso da questo punto di vista. Allora, verrei alla stampa europea, e in particolare mi ha incuriosito questa notizia che ci segnali dalla Francia. In Italia si è stato detto che c'è stato un bambino malato di Covid a novembre del 2019, notizia scientifica di 2 o 3 giorni fa. Anche in Francia ci si interroga sulle origini della pandemia. In che modo, Giulia? Esatto, proprio Le Figaro titola tutta pagina "Un anno après", cioè un anno dopo, l'origine del Covid-19 è ancora un mistero, perché anche alcuni studi francesi dimostrano che ripetiamo, e lo sappiamo ascoltando i virologi, gli epidemiologi, gli immunologi, gli anestesiologi, è misteriosa l'evoluzione di questa malattia, è misterioso questo virus e anche il suo RNA, cioè il suo materiale genetico. Però anche in Francia ci sono alcuni studi che dimostrano che ci sono delle persone che avevano già gli anticorpi alla fine dello scorso anno, o addirittura avevano questo RNA rispetto ad alcuni tamponi. E quindi di nuovo è stato veramente, viene da veramente, come si è detto, da un pangolino di un mercato, di quei mercati che ci sono in Cina. Oppure ha avuto un'altra origine. Ci sono tanti altri virus, Ebola compreso, di cui non sappiamo ancora, è lo stesso virus dell'AIDS, l'HIV, che non sappiamo ancora bene da dove vengano. E quindi Le Figaro, con una certa onestà, perché è più facile naturalmente, diciamo, è più così, è più consolante, anche se vogliamo, dire che il virus sicuramente ha avuto origine in questi mercati cinesi, Le Figaro dice: forse adesso che almeno sta arrivando il vaccino possiamo spostare un po' della nostra attenzione scientifica e mediatica per cercare di capire da dove veramente sia arrivato. Volevo segnalarti però un'ultima cosa dagli Stati Uniti, è questa cosa grossa di Facebook, perché ci sono queste indagini antitrust che sono l'apertura del Wall Street Journal, che sono partite da 40 stati americani, perché noi forse ce lo dimentichiamo, però Facebook non è solo Facebook, è anche WhatsApp ed è anche anche Instagram, quindi certo, è una specie veramente di monopolista dei social network. E questo, insomma, sulla naturalmente stimolate da molte associazioni dei consumatori e anche da rivali del settore dei social media, ha portato a queste 40 indagini, che vedremo come procederanno, indagini appunto per posizione dominante. Questo è un'indagine aperta dall'antitrust. Gran Bretagna, vogliamo Regno Unito, ci sono le foto su tutti i giornali di Boris Johnson, questa visita a Bruxelles, fotografato poco prima della cena, dove poi invece non sono state scattate foto ufficiali, con Ursula von der Leyen. Si è trovato di fronte probabilmente una donna più dura e più risoluta di quello che forse credeva, o forse pensava in qualche modo di avere più margine di trattativa. Non è così, Ursula von der Leyen non vuole cedere su una serie di cose, e quindi ipotizzano molti giornali, oltre a fare la cronaca, si riapre sempre di più il fronte americano, cioè Boris Johnson dovrà in qualche modo sicuramente trovare una sponda negli Stati Uniti, perché l'accordo con l'Unione Europea, mancano pochi giorni ormai, lo sappiamo, sarà quasi certamente una hard Brexit. C'è anche una curiosità che mi ha interessato, la cura per la depressione. È una malattia che, lo sappiamo, insomma, una di quelle malattie che ha lo stigma, come tantissime malattie, disagi mentali, non se ne può parlare, o ancora adesso si parla magari di pazzi o di malattie inventate. Invece la depressione, in tutte le sue forme, nello spettro della malattia, della depressione, colpisce tantissime persone di tutte le età. Nel Regno Unito c'è questa nuova cura a base di un farmaco allucinogeno artificiale. È chiaro che, per definizione, se sei depresso hai bisogno di qualcosa che ti cambi l'umore, ti alzi l'umore. Fino adesso si è trattato soprattutto di farmaci per il cosiddetto reuptake della serotonina, e qui sarebbe una sorta, non dico di LSD, vi prego, però per dare l'idea, insomma, qualcosa di una strada ancora più drastica per cambiare l'umore delle persone, dare alle persone che hanno la depressione una stampella ancora più vigorosa per cercare di ricominciare ad affrontare la vita. Bene, interessante, grazie Giulia, è tutto per la puntata di oggi, con Pietro La Corte Regia e Jacopo De Franchi in redazione. Noi ci risentiamo tra poco, come sempre, per l'aggiornamento delle 14. Ciao, buona giornata.